Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La nostra storia ha un indirizzo ben preciso. Teglgaardstrade numero 16, 1452, Copenaghen, Danimarca. Portone rosso, scale rapidissime, al terzo piano, porta di destra. Ciao, sono Ronny, vivo a Cimadorno, in provincia di Treviso. Ho una bambina di nome Linda e una moglie di nome Giovanna. Per un po' di tempo ho vissuto a Copenaghen. Faccio l'ingegnere nel settore delle comunicazioni. Primo anno di università. Cammino ridendo per la facoltà di architettura, Politecnico di Milano. Trovo un foglio per terra. Sorrido davanti ai miei amici e dico loro: scommettiamo che è di una ragazza. Lei sarà la donna della mia vita. Apro il foglio, trovo un nome che non dimenticherò mai. Torno a casa, le mando una mail. Le chiedo se potevo buttare quel foglio o se la mia era stata una buona azione. Nasce un'amicizia, ci sentiamo, ma non riusciamo mai a vederci per un caffè. Passano 2 anni, nella stessa città, nella stessa università, ma mai un caffè. Ognuno per la sua strada e Facebook a tenere traccia della nostra vita. Se intanto un giorno applico per Parigi, sarei andato lì per un progetto dell'università e rivedo il suo nome, inconfondibile, Elena Paola Beatrice. Il destino ha voluto che ci incontrassimo lì, a Parigi, e così è stato. E da lì è nato un amore, dopo 3 anni dal primo giorno in cui ho letto il suo nome, su un foglio di carta buttato per terra. Il destino. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16, 8 minuti, quasi 9 del primo lunedì del mese di marzo 2013, il 4 di marzo. La puntata di oggi parla di casualità, ma più che di casualità parla di quella serie incontrovertibile, inconfutabile, ma anche impredicibile, che non si può prevedere, imprevedibile, quella parte... ma anche che non si può dire. Vabbè, insomma, avete capito. Quella strana serie di cause che ha fatto sì che voi, tu e lei, lei e tu, o tu e lui, vi siete incontrati. 349-238-6666, oppure se avete un profilo Facebook e ce l'avete aperto, voi siete qui, Radio 24. Quella strana serie di eventi, una improbabile serie di eventi, che ha fatto sì che in un modo o nell'altro, mettendo insieme tutti i pezzi, uno qui, uno lì, spesso anche pezzi che non sembravano andare per il verso giusto, strade storte, bivi, interruzioni, e niente, e alla fine invece siete qui. 349-238-6666, tutto grazie alla storia di Ronny, che parte per la Danimarca, ci parte da solo, ma lì incontra un'altra ragazza che arriva dalla sua stessa città, ma nonostante questo loro due non si sono mai incontrati. Io e il mio compagno ci siamo conosciuti, scrive non c'è il nome, è un profilo strano. Io e il mio compagno ci siamo conosciuti durante il primo anniversario del G8 di Genova. Se non fosse accaduto tutto quello scempio, io non sarei stata a Genova. Se il mio amante dell'epoca non mi avesse lasciato un mese prima, se la mia amica Simona non avesse avuto una delusione amorosa nello stesso periodo. La cosa insolita è che mi sento quasi in colpa, perché atrocità come quelle che sono successe là, che già da sole mi avevano cambiato la vita, mi hanno poi portato a provare gioia in famiglia, un figlio, eccetera eccetera eccetera. 349-238-6666. Un pomeriggio d'estate, una ricerca su Google per disegnare immagini di cartoni animati, l'iscrizione a un sito dove si inviavano disegni, un complimento per un disegno, una risposta, eccetera eccetera. Siamo qua, un matrimonio e un bellissimo bambino. Sono veramente sono quelle che come si chiama? Non mi vengono i nomi, è finita. Sono quelli che comunque si potrebbero definire i punti che vengono uniti. Sapete quando giocate ai giochi della settimana enigmistica, unite i puntini e solo alla fine vedete tutto il disegno, e ogni tanto addirittura raggiungere un puntino dall'altro sembra un percorso impervio. Ecco, esattamente di quello stiamo parlando oggi, di tutte quelle strane concause, casualità, intoppi, incidenti che hanno fatto sì che adesso voi siate lì, che siate qui, che probabilmente siate una coppia. Sì, stiamo parlando d'amore, esattamente. 349-238-6666. Giorgio, vado a un congresso e durante il viaggio mi dico, complice una grossa storia sentimentale che stava finendo e l'amarezza che ne derivava, mi dico, la prima che trovo me la porto a letto. Morale della favola, il giorno dopo conosco lei, sono passati 20 anni, abbiamo avuto una figlia, ci amiamo come l'8 di maggio del 92. Qui Giorgio è uno più che altro il punto, cioè che vieni lasciato e tu pensi, adesso ragazzi, la prima che trovo per strada, non sono proprio tanti punti, è solo uno. E poi niente, ovviamente il profilo Facebook del programma diventa una sorta di rifugio un peccatorum nel momento in cui tutti quanti raccontano di quanto sono felici per la casualità di questi incontri e poi qualcuno come Aurora scrive bello avere storie a lieto fine da raccontare e sotto Cristina dai Aurora non mollare, prima o poi arriverà anche il nostro momento. Ragazzi, siamo tutti con voi. Fate una cosa, alzate un po' il volume della radio e magari da queste storie qualcosa lo si impara, anche se secondo me si impara solo una cosa, che alla casualità non c'è un ordine. La nostra storia ha un indirizzo ben preciso. Teglgaardstrade numero 16, 1452, Copenaghen, Danimarca. Portone rosso, scale ripidissime, al terzo piano, porta di destra. Un appartamento, il caso vuole, uguale a quello di Casper e Ingeborg, i protagonisti di un cartone animato che parla delle casualità della vita, di come anche gli eventi più strani e imprevedibili condizionino le nostre vite e, perché no, le nostre nascite. Ci siamo conosciuti per caso a centinaia di chilometri da casa e ora siamo una famiglia cresciuta anche grazie alle casualità della vita, proprio come quelle raccontate nella storia del poeta danese. I used to think that everybody was adopted from outer space. Ho sempre pensato che siamo tutti adottati dalle stelle, che prima di nascere eravamo piccoli semi fluttuanti nel cielo, in attesa di qualcuno che ci venisse a prendere. E in un certo senso avevo ragione, perché le nostre possibilità di nascere dipendono dall'incontro dei nostri genitori. Questo è l'inizio del cortometraggio Il poeta danese di Toril Køve, che abbiamo trovato per caso su YouTube nel 2010 e che spesso, anche se in inglese, facciamo vedere a Linda, la nostra bambina. Siamo in realtà soltanto io e mia moglie, all'epoca non ci conoscevamo ancora, o meglio, ci eravamo conosciuti da poco. Vivevamo a Copenaghen, pur essendo entrambi della provincia di Treviso. La storia narra di un poeta danese, Casper, che disperato e senza più ispirazione si reca in Norvegia per conoscere una scrittrice famosa, Sigrid Undset. Non raggiungerà mai la meta, fermato dalla pioggia continua della Norvegia. Sarà però ospitato da un lontano parente dell'autrice e lì conoscerà la figlia del fattore, una bella ragazza di nome Ingeborg. Innamorati dovranno dividersi a causa di un matrimonio già combinato dal padre di lei. Il poeta perse ogni speranza, rinuncia ad incontrare Sigrid Undset e ritorna in Danimarca. Ingeborg però gli promette che penserà sempre a lui e che non si taglierà i capelli fino a quando non saranno di nuovo insieme. Di lì a poco, il marito di Ingeborg muore in un tragico incidente, ma Casper non riceverà mai la lettera che lo informa dell'accaduto e della possibilità di reincontrare la sua amata. Così lei attenderà invano per molto tempo e lascerà crescere i suoi capelli, sapientemente pettinati da una bambina del posto. Un giorno però la scrittrice norvegese Sigrid Undset muore e Casper decide di tornare in Norvegia. Questa è l'occasione del nuovo incontro tra i due che, ritrovati e liberi, si stabiliscono a Copenaghen. Ingeborg non si taglia però i capelli, su desiderio espresso da Casper. Ingeborg diventa presto la musa ispiratrice di Casper, che diviene un autore di poesie di grande successo, il poeta danese, appunto. Un giorno però lui inciampa sui capelli lunghi di Ingeborg e si rompe un braccio. Lei allora chiama subito la bambina ormai cresciuta che le pettinava i capelli per accorciarli. Durante il viaggio dalla Norvegia alla Danimarca, la giovane parrucchiera incontra un giovane scrittore diretto a Copenaghen proprio per conoscere Casper e trovare, grazie a lui, l'ispirazione. I due si innamoreranno durante il viaggio e l'autrice della storia rivelerà solo nel finale che loro diventeranno poi i suoi genitori, concludendo che se non fosse stato per il poeta danese, per Ingeborg, la poesia, i capelli da tagliare e molti altri piccoli dettagli, i suoi genitori non si sarebbero mai incontrati su quel treno. E lei probabilmente sarebbe ancora un piccolo seme fluttuante nel cielo, in attesa di qualcuno che la venga a prendere. Questa è una piccola storia dolce e ambientata in Scandinavia e mostra come le coincidenze e le fatalità della vita siano alla base di eventi che condizionano anche la vita di altri. Noi, cioè io e Giovanna, abbiamo sfidato il caso. La nostra storia ha tratti comuni con quella del poeta danese. Entrambi siamo partiti dalla provincia di Treviso nel gennaio del 2005, alla volta di Copenaghen, ma senza conoscerci null'altro. Ci siamo incontrati per caso un anno dopo, sempre in Danimarca. Partiti per lavoro, io in una società di telecomunicazioni e Giovanna come responsabile di cantiere di un'azienda italiana. Io ingegnere e Giovanna architetto, io laureato a Padova, Giovanna a Venezia. Io originario da una parte del Piave e Giovanna dall'altra. A farci conoscere un contatto comune scovato a Copenaghen, grazie al sito degli italiani all'estero chiamato Italians. Conosciuti e innamorati, sempre in quel freddo gennaio, complice una grande nevicata e la nostra conoscenza comune, Elisabetta, anche lei di Treviso. La prima volta che ci siamo incontrati in un caffè in Frederiksberg e grazie ad un'altra comune amica, Elisabetta, che da poco è tornata ancora a Copenaghen e che è stata praticamente la persona che ci ha fatto conoscere per la prima volta. Abbiamo condiviso ben presto un appartamento uguale a quello dei protagonisti Casper e Ingeborg, in una via dal nome impronunciabile, Tegelgarstrade, vicino al piccolo parco Ørstedsparken, e ad un locale molto nordico, sotterrato, gestito ovviamente da un italiano. Lì abbiamo cresciuto il nostro amore per oltre un anno, accompagnati dalla birra Ale numero 16, di un barista certamente italiano, dagli spostamenti in bici in una città senza traffico, dal caffè poco espresso del Caffè Europa e dalle pizze pesantissime di un pizzaiolo forse italiano, da partite di scopone scientifico sotto gli occhi curiosi degli scandinavi. Da allora siamo rientrati in Italia, ci siamo sposati, sempre in gennaio del 2008. Nel 2009, il 21 maggio, è nata Linda. E magari, anche con qualche sorellina o fratellino, speriamo di portarla presto a visitare Copenaghen e i luoghi che ci hanno fatto incontrare, innamorare e dare inizio alla nostra famiglia. In fondo anche noi pensiamo che siamo tutti adottati dalle stelle, che prima di nascere eravamo piccoli semi fluttuanti nel cielo in attesa di qualcuno che ci venga a prendere. Le nostre possibilità di nascere dipendono dall'incontro dei nostri genitori. E se non fosse stato per una proposta di lavoro in Danimarca, un sito di italiani nel mondo, un'amica di nome Elisabetta, una birra di nome Ale numero 16, una via dal nome impronunciabile, lo scopone scientifico e la sirenetta, Linda, nostra figlia, sarebbe ancora un piccolo seme fluttuante nel cielo, in attesa di qualcuno che se la venga a prendere. Ho preso la palla al balzo e sono venuto da te a dirti le cose che penso sinceramente. Primo, per esempio, non è vero che non fumerò più. Stessa casa senza te. Anche se non fosse stato, potrebbe intitolarsi la puntata di oggi, se non fosse stato per la fine di un amore tra amici in comune, amici di quelli con la maiuscola, una sera in discoteca che dettava la fine di una storia d'amore, di quelle che non dimenticherai mai, è iniziata la nostra storia, quando incontri una persona per la prima volta e poi la conosci praticamente per tutta la vita. Eros, 349-238-6666. C'è anche da dire che Tiziano Bonini è letteralmente impazzito per questo sindaco che manda già... è la seconda volta che lo mandiamo, la terza, la prima. Oggi è la prima, domani lo rimandiamo. Ed è un cantautore indipendente italiano che ci avrà 27 anni. Non so, sto tracciando una roba tipo che può essere a metà tra Dente e Bruno Risas, no? Una roba del genere. È della stessa casa discografica e si chiama Il Sindaco. Rimanete, andate a cercare Cellink, giusto? Cellink sulla nostra pagina. Ehi, di là, cioè, se mi guardate ogni tanto, Cellink sul sito di Radio 24, giusto? Se volete ascoltarvi la canzone Cose di casa del Sindaco, andate sulla nostra pagina. Voi siete qui sul sito di Radio 24 e ci trovate direttamente il link a YouTube. Matteo mi scrive: a pensarci bene, c'è questa citazione di Ian McEwan che riassume il senso della puntata. Mi ha sempre colpito pensare che qualcosa di molto piccolo, come non dire la parola giusta o non fare il gesto opportuno, può far prendere alle nostre esistenze una strada diversa. È una cosa che accade innumerevoli volte, ma ce ne accorgiamo appena. Grazie a Matteo per la sua citazione, però grazie anche a non so chi, che però mi scrive dicendomi «Bella zio!» E il messaggio dice: 10 anni fa in Villa Reale a Monza acquistai una canna da quella che oggi è mia moglie. Ora siamo felici, abbiamo 3 cani, ascoltiamo musica punk e fumiamo da mattina a sera», che sembra un messaggio tra un pusher e il suo acquirente, e probabilmente lo è. Poi invece è un messaggio che parla di una storia d'amore. Bella zio anche a te, però magari firmati la prossima volta, non che ti scagliamo contro la polizia, semplicemente per sapere come ti chiami. Si chiama Ronnie, anche se non abbiamo capito esattamente se è il suo nome o è un'abbreviazione, l'autore e protagonista della storia di oggi. Pronto Ronnie? Sì, pronto. Ciao, come stai? Ciao. Bene, bene, ciao. Dove... È il mio nome. È comunque. Il tuo nome? Ma Ronnie con la Y? Sì, i miei genitori avevano visto lungo, diciamo che mi hanno dato un nome che andava bene per andare in Danimarca, ecco. Perché lì si chiamano tutti Ronnie. Sì, beh, è un nome tra i più diffusi, esatto, insieme a Brian. Ma scusami, quindi è un nome danese realmente? Ma in realtà è un nome, diciamo, che si utilizza anche negli Stati Uniti, però in Danimarca è utilizzato e... Ma io sta per Ronald. Sono arrivato lì. Cos'è Ronald? Sì, è un'abbreviazione di Ronald. Però sì. Tu sei proprio Ronnie. Sì, proprio così. All'anagrafe. Sì, questo però non c'entra con l'incontro tra te e tua moglie, giusto? C'entrano una serie di altre piccole cose, come mi puoi correggere la pronuncia? Teglagastrade? Io posso dire la mia, ma non è detto che sia quella giusta. Allora, io dico Teglagastrade. Okay. Però in realtà non ho mai trovato nessuno in Danimarca che capisse quando dicevo il nome della via. E la birra invece? No, beh, la Ale 16. Ale 16, sì, ok, sì. Ok, fino a lì ci siamo. Senti, torniamo un po' indietro, Ronnie. Voi adesso siete tornati in Italia da quanto? Siamo tornati in Italia da ormai 5 anni, abbondanti, 5 anni e mezzo. Tu sei ingegnere, vero Ronnie? Sì. Ah, ok. Perché c'è una sorta di lontananza tra quello che scrivi e poi il tuo tono pacatissimo, che è come se stessi facendo una sorta di esposizione di un sistema informatico, mentre la tua storia è molto romantica. Che cosa fai nella vita, Ronnie? Che ingegnere sei? Nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica proprio, sì. Ah, ok. Ma è un po' il tocco, magari... Quando penso al modo in cui ho incontrato mia moglie e alla bambina che abbiamo avuto assieme. Adesso quanti anni ha lei, la bimba? Ormai quasi 4 anni, 3 anni e mezzo. Ma come l'avete trovato questo cortometraggio di cui parli? Girando per caso su YouTube, che tra l'altro ho visto ed è molto bello. Lo ricordiamo, andate, se lo volete cercare, si chiama The Danish Poet, giusto? Sì. Lo trovate su YouTube direttamente, quanto dura? Un quarto d'ora più o meno? Sì, mi sembra di sì. Purtroppo non c'è in italiano, ci sono in spagnolo o in inglese. O in inglese. E racconta la storia che più o meno Ronnie ha sintetizzato, no? del poeta danese, di Kasper Ingeborg. Com'è che l'avete trovato, scusami, ti chiedevo questo cortometraggio? Per caso, perché un giorno noi a casa siamo rientrati dalla Danimarca e non ci siamo portati la televisione. E un giorno dovevo far vedere qualche cartone animato alla bambina che era ancora piccola, aveva poco più di un anno, e allora ho cercato qualcosa su YouTube, come si fa da buon ingegnere. Vabbè, questo lo fanno tutti, non ti preoccupare. Sì. E ho trovato questo cartone animato per caso, però mi sembrava simpatica l'idea, perché faceva parte delle varie coincidenze che sono avvenute prima. Ma quanto un ingegnere crede al caso? Ah beh, io ci credo tantissimo, sì. Senti, invece l'ultima cosa, voi non avete la televisione, non ve la siete portata, non la guardate quindi? No, è una scelta solo a radio. Quindi è una scelta ben precisa la vostra? Bah no, in realtà è stato un caso. È tutto poi... un caso in questa storia, mi piace perché... Sì, ma poi ci siamo resi conto che avevamo molto più tempo libero per immaginare le cose, quindi... Lo immagino. Ronnie, ti ringrazio per la chiacchierata, ti lascio tornare al lavoro perché ti immagino in ufficio. Sì. Nel sì, sottoscala sì. Dell'ufficio. Ronnie, saluta tua moglie e tua figlia, grazie per la storia. Grazie. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Il metodo più semplice lo scrive Andrea. Un messaggio al numero sbagliato e adesso siamo sposati. Università di Chicago, 1977. Sai che ti amo. Anch'io ti amo. Not for all year. Oh, ciao, Sally. Ecco, questo è Harry Burns. Harry, questa è Sally Albright. Molto piacere. Voi siete qui. È ovviamente con sua moglie Ronnie nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, insieme a tutto il resto, alle canzoni, ai pezzi di storia che mandiamo in onda tutti i giorni. Sono, immagino, a Copenaghen, lo immagino perché non ci sono riferimenti se non un parco alle loro spalle completamente innevato, però strade pulite, quindi sì, direi che siamo in Danimarca. Sono vestiti pesanti, hanno su dei bei piumini. Ronnie assomiglia a qualcuno, ma non saprei dire a chi. Ha su un giubbottone, lei ha su appunto un bel piumino bianco e si abbracciano forte. Probabilità. Sostantivo femminile. Attendibilità confortata da motivi ragionevoli. In matematica, il rapporto fra il numero dei casi favorevoli all'evento e il numero dei casi possibili quando tutti i casi considerati siano ugualmente possibili. In ambito filosofico o teologico, il carattere distintivo dell'opinione, in quanto questa può essere sostenuta con ragioni tali che non escludono la possibilità del contrario. Etimo, dal latino, probabilitas probabilitatis, derivato di probabilis, probabile. Data, metà secolo XVI. Un esame rimandato all'università per ben 3 volte, anche lei lo rimanda 2 volte. Colpo di fulmine, 7 anni e mezzo dopo siamo sposati e finalmente aspettiamo un bambino. Ale e Maddi si firmano. Immagino che sia uno dei due che non abbiate un numero collettivo. Esiste qualche coppia che ha un numero collettivo, cioè della coppia, per cui tu quando chiami direttamente qualcuno? Spero che non esista, però mi sono figurato mentre lo dicevo che potrebbe essere. Margan Wish vuol dire che ne conosce qualcuno. 349-238-6666. Si parla di probabilità, come ha raccontato Alessandra De Luca, ma anche di casualità, le varie casualità che fanno in modo che vi siate incontrati e che siate adesso innamorati, che stiate insieme. Qualcuno parla della legge dei grandi numeri via SMS, però non credo che c'entri la legge dei grandi numeri, anche se ho scoperto di recente che cos'è esattamente la legge dei grandi numeri. L'ho trovato su un libro che si chiama Il meraviglioso mondo dei numeri di Alex Bello, se è una roba Einaudi gialla, come si chiama, Einaudi stile libero. La legge dei grandi numeri dice che se si lancia 3 volte una moneta è possibile non fare mai testa, ma se la si lancia 3 miliardi di volte si può essere abbastanza sicuri che esca testa quasi la metà esatta delle volte. Adesso, visto che se ne parla spesso, non so cosa c'entri col fatto di incontrare o meno la donna o l'uomo della propria vita, ma tant'è. Conosciuti 10 anni fa, separati dagli anni, dalle città, dalla quotidianità, oggi siamo qua insieme e ci guardiamo con gli stessi occhi del nostro primo incontro, increduli del nostro grande e spettacolare amore. Effettivamente colano chili di melassa in questi messaggi che arrivano. Io vi ringrazio per essere ancora così belli carichi d'amore. Il migliore però è Giuseppe, che scrive: incontro quella che adesso è mia moglie Emanuela per caso, è il 97, sono da un'amica comune per salutare e vado a fare il militare a Roma. Lei studia alla Sapienza, mi dice chiamami al fisso di Roma. Non avevamo i cellulari, io non la chiamo. È maggio intanto, sono passati 6 mesi. Siamo tutti all'Eura ad aspettare il pullman per la caserma. Mi si avvicina un commilitone di Marsala e dice: oh, ti saluta Emanuela, ha detto di chiamarla. E io: Emanuela chi? Lei. Si dà il caso che alcuni amici del mio commilitone siano studenti suoi dirimpettai. Ci rivediamo a pranzo a Roma, poi ci salutiamo, io vado a Catania, lei continua a studiare a Roma. In estate ci incontriamo per caso in discoteca, ognuno col proprio compagno, un saluto e via. Ma il Natale di quell'anno entro in un pub strapieno di gente, il cameriere mi dice: aspetta che si sta liberando un tavolo, te lo riservo. Indovinate chi c'era seduta a quel tavolo? E finalmente avevamo comprato i cellulari. Allora, i casi sono due: o veramente è la casualità in queste vite è una scheggia impazzita, oppure frequentate sempre lo stesso numero di persone. Tra questi messaggi che è arrivato, ne è arrivato uno che era il più lampante, che è una storia che di fatto potrebbe essere quasi un racconto a sé stante. È la storia di Legna e del ragazzo da cui adesso aspetta un bimbo. Avevo 25 anni e volevo tanto fare l'attrice. Mi era appena appassionata alla serie TV americana Angels in America, quando scopro che in realtà quella storia è nata per il teatro. Comincio un'assurda e totalmente istintiva ricerca su internet e trovo esattamente quello che cerco. una compagnia teatrale sta preparando l'allestimento di Angels in America a Milano. Scrivo una mail al teatro candidandomi per un eventuale ruolo. Invio e mi benedico. Mi rispondono poco dopo, dicendo che, anche se non per Angels in America, stanno cercando un'attrice che rispecchia le mie caratteristiche per una commedia. Mi sarei dovuta presentare a Modena per i provini qualche giorno dopo. Impazzisco di gioia. Chiamo un mio caro amico attore e in 2 giorni prepariamo un pezzo da presentare ai provini. Poi partiamo per Modena. Alla fine sapevamo di essere piaciuti. Lo percepisci dagli sguardi, dalle emozioni che si diffondono nell'aria. E noi ci eravamo divertiti tantissimo. A quei tempi era un po' l'epoca di MySpace. Così ecco che un giorno trovo una richiesta di amicizia da parte di un tipo che si fa chiamare il Principe. Do un'occhiata e tutto a un tratto chi trovo? Proprio tra gli amici del Principe, in primo piano, uno splendido ragazzo con un sorriso irresistibile, lo sguardo dolce, vestito da sposo. Gli scrivo un messaggio: ciao, auguri per il tuo matrimonio. E lui: ciao, non era il mio matrimonio, quello di mia sorella, io ero il testimone. Bene, penso io. Bene, pensa lui. Cominciamo a chattare. Lui è di Milano, ma ora è a Praga per lavoro. Mi chiede subito il numero di telefono, ma figuriamoci se basta una foto per darglielo. Prima voglio vederti in webcam, gli dico. Lui mi dice: non ho una webcam qui in ufficio. Problema tuo, gli rispondo. Lui esce e va a comprare una webcam. Lo vedevo che faceva finta di lavorare mentre sapeva che invece lo stavo guardando. Ancora più bello e affascinante di quello che immaginavo. Quella sera ci siamo incontrati entrambi via webcam, lui da Milano, dove nel frattempo era rientrato, e io dalla mia stanza, a Roma. Avremmo parlato per ore e ore, e poi al telefono fino alle 3 del mattino. Mi arriva una chiamata un giorno da Milano, il giorno dopo. Ciao Ilenia, sei piaciuta? Ti vogliono per il secondo provino qui a Milano. Chiamo l'uomo dei miei sogni, gli dico che tempo 2 giorni e sarei arrivata a Milano. Lui fa i salti mortali per anticipare il suo ritorno e farsi trovare lì, con lo stesso meraviglioso sorriso di sempre. Faccio il provino tra 50 ragazze, attrici, brave e bellissime. Dormo a casa sua in 3 giorni da sogno, poi via, di nuovo. Alla stazione per tornare a casa ero così triste e così perdutamente innamorata. E il giorno dopo ancora al telefono. Ilenia, devi tornare, siete rimaste tu e un'altra attrice, vogliono vederti. Riparto senza stanchezza, corro a fare quello che sarebbe stato il mio terzo e ultimo provino. All'uscita c'era lui ad aspettarmi, con quegli occhi solo suoi e il sorriso che ormai mi aveva regalato. Mi guarda e io grido: mi hanno preso. Mi stritola, mi bacia. Avrei dovuto restare a Milano per 3 mesi, cercare casa, per le prove e poi in tournée. Ma lui non me l'ha permesso. Mi ha regalato le chiavi di casa. Mi ha dato tutto di sé e ci siamo conosciuti vivendo insieme. Dopo un anno ci siamo sposati, era il 2008. Ora viviamo a Roma e io aspetto un bambino e spero che abbia il suo sorriso. Another way, another way to your heart. We start to look like seconds and then we're off. The more you take to yourself, the more you take it away. We settle in to your fear. We start to look like echoes and then we're off. Per poco non mi investe uscendo dal bagno dell'università coi pattini. Ci rivediamo 2 anni dopo sulle piste da sci e siamo gli unici a condividere una grappa. Questo 10 anni fa. Sul profilo Twitter del programma, che è Voi Siete Qui R24, abbiamo condiviso, cioè Margherita Ina, la twittatrice folle della redazione di Radio 24, abbiamo condiviso la storia del poeta danese, da cui, diciamo, non è nato tutto, però è nata parte della storia di Ronny di oggi. Ripeto, c'è solo in inglese e in spagnolo, purtroppo. Però se ve la guardate, qualcosa arriva, un po' come Voi Siete Qui. Anche se state facendo altro e non ascoltate proprio esattamente la storia, qualcosa vi arriva, 2 parole, una musica di Tiziano. Se invece volete farvela arrivare proprio tutta la roba, andate sul podcast di Radio 24 e vi scaricate tutte le puntate che abbiamo messo in onda da quest'anno. Allora, scaricarvele solo le ultime 5, in streaming, cioè in diretta, live, con la connessione, tutte quante. Grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina. Grazie soprattutto a Ronny, perché la storia di oggi era la sua e anche lui da oggi è un punto rosso su una mappa. Sono Matteo, abito a Malcesine e la storia di domani è la mia.